Il re Nabucodonosor fece una statua d'oro. La sua altezza era di 60 cubiti, la sua larghezza di 6 cubiti. Poi la eresse nella pianura di Dura, nella provincia di Babilonia. Il re Nabucodonosor mandò a radunare satrapi, governatori e prefetti, consiglieri, tesorieri, legisti, giudici e tutte le autorità delle province, perché venissero all'inaugurazione della statua che il re Nabucodonosor aveva eretto. Allora si radunarono satrapi, governatori e prefetti, consiglieri, tesorieri, legisti, giudici e tutte le autorità delle province per l'inaugurazione della statua che il re Nabucodonosor aveva eretto. Essi si misero in piedi davanti alla statua che il re Nabucodonosor aveva eretto. L'araldo gridava ad alta voce: «A voi, popoli, nazioni e lingue diverse, si comanda, quando udirete il suono del corno, del flauto, della cetra, della sambuca, del salterio, della zampogna e di ogni genere di strumenti musicali, vi prosternerete e adorerete la statua d'oro che il re Nabucodonosor ha eretto. Chi non si prosternerà e non adorerà, subito sarà gettato dentro ad una fornace col fuoco acceso». Perciò, appena tutti i popoli udirono il suono del corno, del flauto, della cetra, della sambuca, del salterio e di ogni genere di strumenti musicali, si prostrarono tutti, popoli, nazioni e lingue, e adorarono la statua d'oro che il re Nabucodonosor aveva eretto. Tuttavia, alcuni caldei si presentarono immediatamente a denunziare i giudei. Prendendo la parola, dissero al re Nabucodonosor: «O re, vivi in eterno! Tu, o re, hai promulgato il decreto che chiunque udisse il suono del corno, del flauto, della cetra, della sambuca, del salterio e della zampogna e di ogni genere di strumenti, si prostrasse e adorasse la statua d'oro. Chiunque non si fosse prostrato e non avesse adorato, verrebbe gettato dentro la fornace col fuoco acceso. Ora, ci sono alcuni giudei che hai preposto all'amministrazione della provincia di Babilonia, Sadrach, Mesach e Abdenego, che non hanno tenuto conto del tuo decreto, o re. Non servono il tuo Dio e non adorano la statua d'oro che hai eretto». Allora Nabucodonosor, con ira e furore, ordinò di far venire Sadrach, Mesach e Abdenego. Essi furono subito condotti davanti al re. Nabucodonosor domandò loro: «Sadrach, Mesach e Abdenego, è vero che non servite i miei dei e che non adorate la statua d'oro che ho eretto? Ora, siete disposti, quando udirete il suono del corno, del flauto, della cetra, della sambuca, del salterio e della zampogna e di ogni genere di strumenti, a prostrarvi e ad adorare la statua che ho fatto? Se voi non l'adorate, subito sarete gettati dentro alla fornace col fuoco acceso. E qual è il Dio che vi libererà dalla mia mano?» Sadrach, Mesach e Abdenego risposero al re Nabucodonosor: «Su ciò non abbiamo bisogno di risponderti. Sappi che il Dio che noi serviamo è capace di liberarci dalla fornace col fuoco acceso e dalla tua mano, o re. Ma se non vuole liberarci, sappi, o re, che non serviremo i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che hai eretto». Allora Nabucodonosor si accese d'ira e l'espressione del suo volto cambiò nei riguardi di Sadrach, Mesach e Abdenego. Quindi dette ordine di riscaldare la fornace 7 volte di più di quanto si soleva riscaldarla e ordinò ad alcuni degli uomini più forti del suo esercito di legare Sadrach, Mesach e Abdenego e di gettarli nella fornace col fuoco acceso. Allora furono legati con i loro calzoni, i loro calzari e i loro copricapo e le loro vesti, e furono gettati dentro la fornace col fuoco acceso. Proprio perché l'ordine del re urgeva e la fornace era riscaldata più del solito, la fiamma del fuoco uccise coloro che vi avevano gettato, Sadrach, Mesach e Abdenego. Quanto ai 3 giovani, Sadrach, Mesach e Abdenego, essi caddero legati dentro alla fornace col fuoco acceso. Essi passeggiavano in mezzo alle fiamme lodando Dio e benedicendo il Signore. Azaria, stando in piedi e aperta la bocca in mezzo al fuoco, disse: «Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri. Degno di lode e di gloria è il tuo nome nei secoli. Perché tu sei giusto in tutto quello che hai fatto a noi. Tutte le tue opere sono veraci, le tue vie sono rette, e tutti i tuoi giudizi sono veraci. Hai agito secondo verità in tutto ciò che hai riversato su di noi e sopra la città santa dei nostri padri, sopra Gerusalemme, perché conforme a giusto giudizio hai fatto tutto questo per le nostre colpe. Sì, abbiamo peccato, abbiamo commesso l'iniquità allontanandoci da te, abbiamo peccato gravemente in tutto, non abbiamo obbedito ai tuoi precetti, non li abbiamo osservati, né abbiamo operato come ci avevi comandato, perché tutto ci andasse bene. E ora tutto quello che ci hai inviato e tutto quanto ci hai fatto, lo hai fatto secondo un giudizio verace. Ci hai dato in mano dei nostri nemici, senza legge e peggiori degli empi, d'un re ingiusto e il più scellerato sopra tutta la terra. Ora noi non possiamo aprir bocca. Onta e obbrobrio sono toccati ai tuoi servi e a quelli che ti adorano. Oh, non ci abbandonare per sempre a motivo del tuo nome e non rompere la tua alleanza. Non ritirare da noi la tua misericordia a motivo di Abramo, tuo amico, di Isacco, tuo servo, e di Israele, tuo santo, ai quali hai parlato dicendo di moltiplicare la loro discendenza come gli astri del cielo e come l'arena che è sul lido del mare. Ah, Signore, siamo diventati i più piccoli nei confronti di tutte le genti. Siamo umiliati oggi sopra tutta la terra a causa dei nostri peccati. Non c'è nell'ora attuale né principe, né profeta, né capo, né olocausto, né sacrificio, né oblazione, né incenso, né un luogo dove offrirli davanti a te per trovar misericordia. Ma per la contrizione dell'animo e l'umiliazione dello spirito possiamo trovare accoglienza, come con olocausti di arieti e di tori e come con migliaia di pingui agnelli. Tale sia la nostra offerta al tuo cospetto in quest'ora, da compiere presso di te, perché non c'è vergogna per coloro che confidano in te. Ora noi ti seguiamo con tutto il cuore, ti temiamo e cerchiamo il tuo volto. Non ci ricoprire di confusione, ma agisci con noi secondo la tua benignità e secondo la ricchezza della tua misericordia. Liberaci per la tua mirabile potenza e dà gloria al tuo nome, Signore. Retrocedano invece confusi quanti fanno il male ai tuoi servi, siano ricoperti di infamia, resi impotenti, e la loro forza venga spezzata. Conoscano che tu, Signore, sei l'unico Dio, glorioso sopra tutta la terra. I servi del re, che li avevano gettati dentro, non cessavano di riscaldare la fornace con bitume, pece, stoppa e legna minuta. La fiamma si estendeva sopra la fornace fino a 49 cubiti e, propagandosi, bruciò i caldei che trovò intorno alla fornace. Ma l'angelo del Signore scese nella fornace con Azaria e i suoi compagni e spinse fuori della fornace la fiamma di fuoco, facendo dell'interno della fornace come un luogo ventilato dove spirasse la brezza. Il fuoco non li toccò per nulla, non fece loro alcun male né procurò alcun tormento. Allora i tre, ad una voce, lodarono, glorificarono e benedissero Dio, nella fornace, dicendo: «Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri, lodato e sovresaltato nei secoli, e benedetto il tuo santo nome glorioso, lodato e sovresaltato nei secoli. Benedetto sei tu nel tempio tuo santo glorioso, grandemente lodato e gloriosissimo nei secoli. Benedetto sei tu sul trono del tuo regno, lodato e sovresaltato nei secoli. Benedetto sei tu che scruti gli abissi, assiso sopra i cherubini, lodato e sovresaltato nei secoli. Benedetto sei tu nel firmamento del cielo, lodato e glorificato nei secoli. Benedite il Signore, opere tutte del Signore, cantate e sovresaltatelo nei secoli. Angeli del Signore, benedite il Signore, cantate e sovresaltatelo nei secoli. Benedite cieli, il Signore, cantate e sovresaltatelo nei secoli. Acque tutte del cielo, benedite il Signore, cantate e sovresaltatelo nei secoli. Potenze tutte del Signore, benedite il Signore, cantate e sovresaltatelo nei secoli. Sole e luna, benedite il Signore, cantate e sovresaltatelo nei secoli. Astri del cielo, benedite il Signore, cantate e sovresaltatelo nei secoli. Piogge tutte e rugiade, benedite il Signore, cantate e sovresaltatelo nei secoli. Venti tutti, benedite il Signore, cantate e sovresaltatelo nei secoli. Fuoco e calore, benedite il Signore, cantate e sovresaltatelo nei secoli. Gelo e freddo, benedite il Signore, cantate e sovresaltatelo nei secoli. Rugiade e brine, benedite il Signore, cantate e sovresaltatelo nei secoli. Ghiaccio e freddo, benedite il Signore, cantate e sovresaltatelo nei secoli. Brine e nevi, benedite il Signore, cantate e sovresaltatelo nei secoli. Notti e giorni, benedite il Signore, cantate e sovresaltatelo nei secoli. Luce e tenebra, benedite il Signore, cantate e sovresaltatelo nei secoli. Folgori e nuvole, benedite il Signore, cantate e sovresaltatelo nei secoli. La terra benedica il Signore, canti e lo sovresalti nei secoli. Monti e colline, benedite il Signore, cantate e sovresaltatelo nei secoli. Germogli tutti della terra, benedite il Signore, cantate e sovresaltatelo nei secoli. Voi sorgenti, benedite il Signore, cantate e sovresaltatelo nei secoli. Mari e fiumi, benedite il Signore, cantate e sovresaltatelo nei secoli. Balene e tutto ciò che guizza nelle acque, benedite il Signore, cantate e sovresaltatelo nei secoli. Uccelli tutti del cielo, benedite il Signore, cantate e sovresaltatelo nei secoli. Quadrupedi e rettili, benedite il Signore, cantate e sovresaltatelo nei secoli. Figli degli uomini, benedite il Signore, cantate e sovresaltatelo nei secoli. Voi di Israele, benedite il Signore, cantate e sovresaltatelo nei secoli. Sacerdoti del Signore, benedite il Signore, cantate e sovresaltatelo nei secoli. Servi del Signore, benedite il Signore, cantate e sovresaltatelo nei secoli. Spiriti e anime dei giusti, benedite il Signore, cantate e sovresaltatelo nei secoli. Voi, santi e umili di cuore, benedite il Signore, cantate e sovresaltatelo nei secoli. Anania, Azaria, Misaele, benedite il Signore, cantate e sovresaltatelo nei secoli, perché ci ha strappati dall'Ade, ci ha salvato dal potere della morte, ci ha liberato dall'ardore della fiamma, di mezzo al fuoco ci ha liberato. Ringraziate il Signore perché è buono, perché eterno è il suo amore. Voi tutti che adorate il Signore, benedite il Dio degli dei. Cantate e rendete grazie, perché eterno è il suo amore. Allora il re Nabucodonosor, rimasto turbato, si alzò in fretta. Domandò ai suoi intimi: «Non abbiamo gettato questi tre uomini nel fuoco, legati?» Essi risposero al re: «Certamente, o re». Egli soggiunse: «Ecco, io vedo quattro uomini slegati che passeggiano in mezzo al fuoco e non ne ricevono nessun danno. L'aspetto poi del quarto rassomiglia a quello di un figlio degli dei». Quindi Nabucodonosor si avvicinò all'apertura della fornace col fuoco acceso e gridò: «Sadrach, Mesach e Abdenego, servitori del Dio Altissimo, uscite e venite qua». Allora vennero fuori di mezzo al fuoco Sadrach, Mesach e Abdenego. Satrapi, prefetti, governatori e intimi del re si avvicinarono per vedere quegli uomini. Il fuoco non aveva avuto potere sopra il loro corpo e i capelli del loro capo non erano stati bruciati, i loro vestiti non erano stati alterati e in loro non era odor di fuoco. Nabucodonosor esclamò: «Sia benedetto il Dio di Sadrach, Mesach e Abdenego, che ha mandato il suo angelo e ha liberato i suoi servi, che avendo fiducia in lui hanno trasgredito l'ordine del re e hanno dato i loro corpi piuttosto che servire e adorare altri dei all'infuori del loro Dio. Perciò ordino che tutti i popoli, nazioni e lingue che parleranno in modo blasfemo contro il loro Dio, cioè di Sadrach, Mesach e Abdenego, siano messi a morte e le loro case siano ridotte in un mucchio di rovine, perché non c'è altro Dio che possa liberare allo stesso modo». Allora il re dette nuovamente autorità a Sadrach, Mesach e Abdenego nella provincia di Babilonia. Nabucodonosor, re, a tutti i popoli, nazioni e lingue che abitano sopra tutta la terra, la vostra pace si moltiplichi. Mi è sembrato bene far conoscere i prodigi e le cose meravigliose che Dio Altissimo ha fatto nei miei riguardi. I suoi prodigi, come sono grandi, e i suoi miracoli, come sono meravigliosi. Il suo regno è un regno eterno e la sua potenza dura di generazione in generazione.